Gianfranchi su 10. Chi è? Ciao Gianfranco. No, ciao Gianfranco, scusa che avevo il volume pressoché a zero, ho visto solo il segnale. Sto controllando questo ridicolo rosmetro incorporato del 3009, che in effetti non serve a niente. Potevano farlo un po' meglio, ma. Bravo, succede che certe cose non servano. Grazie comunque per il consiglio che mi ha dato. Effettivamente devo dire, nonostante fossi molto scettico su questi apparati piccolini, sono abbastanza perplesso, è molto sensibile, molto chiaro, molto. Perché tu fidati che funziona benissimo anche questo specchio automatico che ti evita il rumore. La radio è sempre silenziosa, però i segnali bassi, tipo i camionisti, li sente anche se sono distanti. Quindi questo è veramente un affare, devo dire. Sì, forte il segnale, ma cos'hai fatto? L'hai lasciato a 4 oppure l'hai fatto più performante? Perché io è come sentissi una lieve saturazione. Un'impressione mia, ma magari la vicinanza. No, diciamo che lui è sulla potenza, diciamo, di 4 watt, dai, per essere così piccolino. Non so se la radio magari è satura, forse ero troppo vicino io. Vabbè, sì, non perfetta, ma toni vabbè un po' bassi. Sì, quell'apparecchietto interessava anche un altro CB e ti dirò che averlo per emergenza, per scorta, per così, non è male. Una cosa non ho capito Gianfra, ma tu, cioè ti è arrivato con le, in modalità PL, no, polacca, ma tu come l'hai rimesso in modalità nostra? Tramite menu, cioè premi un tasto, accendi, selezioni la banda o hai dovuto agire internamente? Dunque dipende perché c'è due modalità. Anzi, non è bloccata, sì, c'ho ragione, non è bloccata e quella CE. Quella operatore che c'è, tra l'altro, sia solo in FM. Adesso lo ripeto, non so da dove l'abbiamo mandato questa sera. Però è stato stato così, quindi l'ho aperto, ovviamente aprendolo c'è il bollino di Anastasia, che aveva messo il buco. Ma 50 euro, che se ne frega, non ci fa neanche un pieno di macchina. L'ho aperto con un po' di pazienza visiva, soprattutto perché la cosa come ho sentito questi micro ponticelli che ci sono all'interno, per adattarlo veramente alla modalità di tutta Europa, ecco, quindi Polonia, paesi dell'est compresi, Russia. Questa è la funzione, acquisisce tante funzionalità, ecco, di questo riguardo anche credo arriva a 29 spiccioli, ma il problema è che non si capisce un tubo poi dove sei, perché l'indicazione non se ne dà, capisco, non esce L, non esce H, non esce G, cioè si ritrova di lì come se fosse qua, però non sai, quindi è meglio impostarlo su quella normale, quella gatta. E poi c'è anche la possibilità della funzione bassa e della funzione alta, insomma, potente. Tutto lì. Ho alzato un po' il volume. Cioè io l'altra volta quando ti stavo ascoltando con quell'altro apparato, ti sentivo meglio. Poi io sento molti toni bassi, è come una saturazione, come se fosse soffocata un po'. Non so, così ti sento, dai. Ho capito. Guardate così va un pochino meglio, vediamo un po', ho distanziato di molto adesso la voce, cioè il microfono. Perché la palma, ho capito, per di più c'è una RJ 12 al posto dell'RJ 45. Quindi adesso devo trovare una soluzione, trovare qualcuno che venda questo connettore, perché da fuori sono fatti da 50 addirittura, quindi dici, insomma, come tu riesci a far pagare 6 euro, poi non solo puoi mettermeli per il plastico. No, da qualche collegamento, e volendo collegare anche uno di quei microfoni da tavolo che sono formidabili, quindi non dovrei avere problemi. Questo ovviamente la macchina è piccolo. Mentre invece a fatto di tonalità e cose di questo genere, dimmi com'è la comprensibilità, che è quello che alla fine importa. Vabbè, a parte i toni bassi, a parte la lieve saturazione, io ti capisco. Ho alzato, diciamo, un po' più il volume ho dovuto alzare. Diciamo anche abbastanza l'ho dovuto alzare. Vabbè, quello al limite non sarebbe un problema, ci metto dentro un circuitino e mando più modulazione, o la correggo un po'. Comunque sono tutte cose un pochettino così, essendo una macchina questa attrezza. Poi secondo me, da quel che ho letto, qualcuno elimina la spugnetta interna, di solito le fanno belle pressate, e se la capsula microfonica ha sempre quella reticella fittissima, è quasi invisibile la reticella da quanto è sottile, no? Ma è molto fitta, dovrebbe migliorare ulteriormente. Il segnale è molto forte, sì, 920 pieno, tra 920 e 925, perciò ti chiedevo della potenza, ecco. Eia. Allora, PNI, che io sappia, è rumena, dovrebbe essere rumena. Guarda, se dai un'occhiata al certificato di conformità, dovrebbe fare riferimento a un'azienda rumena, se non ricordo male io. È come una Intech italiana, dai. Certo che se però come lo compri è bloccato su bande lonfie e per sbloccarlo devi fare i salti mortali, allora no, è un po' seccante. Poi se uno vuole andare sul sicuro, si piglia Ceretti Millennium, solo che costa, caspita, da 49 euro a 69 euro, fate il conto, 20 euro in più, e alla fine dentro è identico. Più che altro l'assistenza, cioè la CRT dovrebbe essere importata dalla Proxel in teoria, però a PNI non si sa chi lo devi mandare, vabbè che assistenza su quegli apparecchi, cioè finché in garanzia forse te la fanno, ma dopo la garanzia costa più l'assistenza che l'apparecchio. Infatti sono apparecchi usa e getta. Adesso mi sentirei decisamente male, perché mentre tu parlavi ho già aperto il microfono. Eia, comunque in FM dovrebbe migliorare. Già, dovrebbe migliorare. Sì, sono tutti accorgimenti. Guarda, per esempio, ti ricordi l'apparecchio che avevi tu, no? Il 5005. Allora lì, anche lì c'era una spugnetta bella pressata, nera. Togliendo quella, la capsula è comunque protetta da una membrana fittissima e quasi trasparente che blocca le goccioline di pioggia, di sputazzi, no? Quindi la capsula è protetta, la modulazione è molto più piena, più ampia, più limpida, dai, meno soffocata. Sì, l'ho trovata, è una specchia di tappo di bottiglia qua. Un attimino che la che ne tolgo il microfono, se non metto il faccio in mano. E io fai con calma. Prego, però controllo. Avanti. Buonasera, chi sei, Marco? K positivo, buonasera, fai un passaggio, vediamo un po' il segnale alla radio. 1, 2, 3, Claudio Nevada da Porto Torres. Sì, ciao Claudio, allora sì, Santiago 8,5, con picchi notevoli a 9 o poco più di 9, abbastanza amplificata. La timbrica, vediamo un po', fammela avvagliare meglio. Perché sto risistemando tutto dopo tanti anni, insomma, sto cercando di rimettere tutto al meglio. Sì, allora ho notato una cosa, che non so se hai aumentato qualcosa, il segnale 9 più 5 senza modulare, però modulando scendi a 8 e mezzo. Hai come dei picchi negativi in questo passaggio, prima erano positivi, un attimo prima. Vediamo Gianfranco se a che punto è. Dovrebbe andare bene. Ho abbassato un po' il mic again. Sì, 9 più 5, muto, però se scendi sotto il 9, picchi negativi. Per il resto la modulazione è capibilissima, la timbrica. Come dire? Va bene, io non sono molto selettivo . Gianfranco, ci sei? Dai un controllo all'amico. Sì, non so se però mi sente. Comunque io lo sento bene, per me la radio è abbastanza chiara, considera che non è stato torre, è estremamente coperto, tanto è vero che non so se lui mi diceva, però ripeto, io lo sento bene. Il segnale mi sembra a 5 qua, così a occhiometro, già lo sai, questi a LED non è che siano tanto attentibili. Vediamo un po' se mi ha sentito. Sì, ti ho sentito, buonasera. Qui mi arrivi all'incirca un Santiago 5, radio abbastanza comprensibile. Ah, ok, perfetto. Non ti contavo molto, considerando che sto usando un micro apparecchio. C'è una recensione veramente che continua a meravigliarmi, Marco. Io ho staccato quell'affare che mi hai detto e adesso c'è il microfono libero, c'ho il pulsante, insomma ti puoi immaginare, ci devo mettere ancora il tappo. Sì, oddio, la timbrica modulazione è rimasta un po' quella, magari più di tanto non si può fare. Una domanda, la capsula microfonica è elettrete, al condensatore o è dinamica? Condensatore. Ah, ho capito, dai. E dicevi, la presa microfonica non è RG45, ma è RG12. Ah, se l'hanno studiata bene, così è. Che palle. Vabbè. Vendono anche microfoni di ricambio, lo sai, di quegli apparecchi. E più che altro marcati CRT, dai. Sì, guarda, ho rimesso il tappo, Quanto costerà? 4 euro, 5 euro, un microfono. Comunque, poveraccio fa quello che può, niente da dire, tiene presente il prezzo, bisogna sempre tenere presente il prezzo. Ed è lo stesso apparecchio, identico sfruttato di quello che tu paghi col prezzo che hai detto lì della Midland. Sono identici, li fanno tutti in Cina. Capito? Non c'è niente di diverso. Vediamo un po' l'amico di Porto Torres, cosa ci dice un po' oggi, anche oggi giornata calda. Sì, molto calda oggi, molto calda. Ero sul tetto fino adesso, tirando l'RG8, ma è troppo caldo. E rimetto tutto domani mattina, senz'altro. Infatti. Riprendi un attimino Marco, che io rimetto le zitti in questo apparecchio, cioè sul microfono. Poi sono microfoni, hai visto, dimensioni come il 5005 peraltro, quasi identico. Sti mini microfoni viene bene anche, cioè viene male tenerli in mano pure. Sì, allora per l'amico di Polo Torres è ritornato come all'inizio appena entrato, 8 e mezzo, con picchi positivi a 9K. Se era un linearetto c'era qualcosa che non andava, perché scendeva, dava picchi negativi. Comunque sì, ho piantato l'antenna molto bassa, è molto attaccata al tetto e non sta andando bene, assolutamente non va bene, vuole molto più in alto. Ma guarda che arrivare a 8 e mezzo, quasi 9 qua, è molto la Porto Torres. Qua sì, perché io sono schermato, io vedo, allora ti spiego, la mia antenna, una 5 ottavi, vede la zona industriale, però proprio la città, la parte abitata di Sassari è coperta. Quindi arrivare 8:30, quasi 9 qua è un ottimo segnale, ottimo. E ho messo una Master Game originale, e l'avevo acquistata tempo fa, non la volevo manco mettere perché si piega troppo, al vento si piega troppo, avevo paura che si rompesse, ma speriamo che tenga. Sì, la Game Master, sì. Ascolta, hai preso la versione, comunque hai messo la versione 5 ottavi o la versione mezz'onda? 5 ottavi, nella versione 5 ottavi. Ok, sì, perché poi hanno fatto una versione un po' più corta, magari per chi è in zone ventose, perché in vari casi ci sono stati di rottura, casi di rottura, magari è stata tirantata male. Va bene, comunque il segnale è ottimo, non so quanti siano i tuoi watt, io sto usando Orreali 3 watt con molto cavo, 50 metri di cavo, quindi dall'antenna non so quanti ne usciranno, forse 2,5, forse 2 K. Un apparecchio, un Superstar 3009, lasciato omologato, e antenna 5 ottavi Energy della Midland. No, e poi ne devo mettere un'altra dove c'è ancora il tubo piano. Claudio. E quella andrebbe molto più in alto, e c'ho una Mantova a 4 radiali, che è nuovissima, ben tenuta, e vediamo da rimetterlo lì sopra. Penso che vada molto meglio. Dipende, anzi ti dirò, con l'antenna che hai tu è molto silenziosa in ricezione, molto silenziosa, poco QRM, e poi hai una larghezza di banda notevole, puoi spaziare di un sacco di canali senza avere stazionarie. Non è male la Game Master, poi può non piacere, vabbè, a me piacciono le antenne di alluminio, è una fissazione mia, piace l'alluminio. Né vetroresina, né PVC, né niente, però quella è stata copiata anche la Game Master, hanno fatto canne da pesca casalinga, no? E funzionano tutte più o meno bene, quindi il progetto è molto valido. Gianfranco, sei rientrato? Sì, ho richiuso il microfono e ascoltando, volevo sapere dall'amico il professore in che zona il professore si trova, perché ero da molto che non sentivo dei segnali così. Mi Pomponio, vieni 27 invece di fare ciucciù in PML. Bien. E quindi Gianfra, sei rimasto positivamente colpito da quell'apparecchietto. Proviamo l'NFM, vediamo se è più chiara la modulazione. Sì, proviamola, non ho mai provato fino adesso. Proviamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, ecco qua. Caspita, sono impressionato, c'è una silenziosità questo apparecchio, senza perdere di sensibilità. Stavo sentendo anche i camionisti, non sapevo neanche dove erano. È notevole, veramente notevole. Va bene, faccio il test, vediamo un po' dove mi porta. Parla un po' con Claudio, così almeno sento subito se c'è qualcuno. K, allora Claudio, se ci sei ancora, vediamo un po'. Sì, perché ti spiego, la banda tedesca Gianfra dovrebbe avere tipo 40 sopra e 40 sotto, e non so come siano disposti i canali, quindi tu metti il 10 di, poi l'indicatore canale potrebbe segnare 80, dall'1 all'80, non so come siamo messi, comunque prova, dai. Insomma, quando ci trovi parlando siamo qua, dai, sul 10. Vai Claudio. Ecco, sei aumentato adesso, 9,5 modulazione. Io non ho toccato niente, però tu sei aumentato paurosamente, sei passato a 9 più 10, ma non è che c'è qualche falso contatto lì? E comunque 9 più 10 apro la torres mi pare uno sproposito. Caspita. Ho visto che c'era qualche stazionario, però c'era il bocchettone che era mezzo mollato. Era mezzo mollato, adesso l'ho preso. Ma 9-10 mi sembra anche un segnale troppo forte per essere a Pro Torres, comunque dai, prendiamola per buona. Da me 7, figurati che si arriva. S7, come sono adesso Marco? Sono riuscito a mettere questa impostazione perché mettendoci la mano sopra l'apparato è incandescente, vabbè che c'è caldo, ma scaldano quegli apparecchietti, guarda, prima eri tra 9 e 9,25, adesso sei un 9 più 20, cioè è talmente, come quel termine, risibile la differenza, no? Risicata, dovresti scendere di un punto S in teoria da 1 a 4 watt. E quindi va bene così, dai, lo lasciamo così, che così anche nell'ambito della sua modulazione europea. Vediamo se mi sente Claudio. Vedi un po' com'è Claudio. È migliorato, il segnale è migliorato. È abbondante. Ha parlato. Sì. Ho capito, strano perché ho ridotto la potenza. Quindi riducendo la potenza, interessante, è vero Marco, quasi lo metto a 500 milliwatt. Secondo me ci ha guadagnato anche le modulazioni, secondo me ci ha guadagnato, e anche perché, quelli scaldano, l'ho letto vabbè su internet che ce l'aveva, quelli anche con 4 volt scaldano a bestia, quando fai botta risposta, scaldano che ci puoi cuocere l'ovetto sul coperchio. Sì Claudio, dimmi. Infatti capire dove abiti, Sì, solo che, caspita, 9 più 10 era produttore e se nessuno è mai arrivato, ma forse hai attaccato qualcosina, però si è abbassata la modulazione parecchio, Gianfra, corrisponde a te. Confermo, si è abbassata. Mi sembra che ci siano stati cambiamenti particolari. No, allora il passaggio migliore era appena sei entrato, quell'8,5 quasi 9, è radio buona, quello era il passaggio migliore. Sempre bassa. Per non dire quasi sparita in questo passaggio, Per non dire quasi sparita, un filo di voce ho sentito. Gianfra, poi vabbè, giustamente poi se lo devi mettere in macchina su qualche mezzo apprezzerai anche la staffa a sgancio rapido, no? Cioè non è come con i pomelli, lì allarghi quelle alette di plastica, sfili, è molto più comodo anche per i ladri, capito? Basta lasciare la portiera aperta un attimo, loro tac, sfilano e scappano. Ma perché ci sono ancora i ladri che rubano questi affari? Sarebbe veramente ridicolo. Se un ladro è un pochino intelligente, ruba qualcosa di più importante, una borsa piena di soldi. No, questo affare che non è da cosa, dal ricettatore, che dice cos'hai, cosa fare, non ti do niente, buttalo via. Vabbè, ma se trovi il tossico che sa per entrare in astinenza, che ha bisogno di soldi e non capisce nulla, lì ruba qualsiasi cosa elettronica, magari non distingue nemmeno se è un autoradio, se è un baracchino, e poi lo porta a quei venditori dell'usato, gli danno 5 euro, 10 se gli va bene, se glieli danno pure. Ah, io non credo. Non so se si sentono i sottofondi, ma sto ascoltando una trasmissione di messa. Cavolo, non immaginavo che ricevesse così forte quell'apparato. In FM, C41. Sì, sì, tipico, intorno ai 40, sì, sì. Però ho detto cosa bisogna fare, andare in paese con un bel, no? Mettersi in isofrequenza, vatta manetta e bestemmione. Così vedi le signore anziane che si fanno il segno della croce. Guarda, quella è una bastarda, mi ricordo, mi stai facendo ricordare una cosa di, credo fosse Ben Hills, che aveva messo un radiomicrofono per la messa in modo, no? Il capo se lo faceva cadere, solo che tu l'hai dimenticato acceso quando è entrato nel confessionale e tutti ascoltavano le confessioni. Sì, guarda, qualcosa l'avevo sentito anche per... è stata ripresa quella gag, come la vuoi chiamare, in altri film comici, no, pure microfoni, sai, quello per... magari non radiomicrofoni, ma l'amplificazione, no, quella entrava, diceva tutti peccati e tutti sentivano quello che diceva. Eia. Bene, io andrei a bere. Non so chi ci sia rimasto, vediamo se c'è Emanuele ancora. Emanuele, se ci sei, fai un passaggio, che ho la bocca asciutta. Sì, ci sono, Marco. Esso Maria, mi hai fatto sordo, avevo il volume, un bel salto. E la Madonna, e tu ammazzalo per quello. Ma sai perché? Perché c'è Claudio Operatore che lo sentivo con un filo di voce, era quasi Radio 1, no, senza quasi, Radio 1, 2 massimo. E Gianfranco, vabbè, c'è una modulazione pacata e tu sei sparatissimo. E quindi Claudio non c'è più, l'Operatore. Sì, che ci sto. Come mi ascolti lì, Ocla, da poco a dove, se? 9 secco, radio a bomba. 9 secco, possibile Marco lì, vai tu. Ma prima era 7, adesso è 9, hai aumentato qualcosa tu? Io? Prima ti ha detto che arrivavi 7, adesso arrivi 9, o c'è qualche falso contatto lì, qualche bocchettone, A me sembra strano, a me mi sa che sta andando il numero di Claudio. 9, qua mi segna 9. Ma tu quanto le stai arrivando a lui, Marco? Prima mi ha detto 7, Claudio, vedi un po', guarda se è salito anche il mio, e se no c'è qualcosa lì nella ricezione che va e viene. Adesso sei arrivato a 9 anche tu. Decisamente c'è qualcosa che oscilla lì. Va bene, io 9 operatori, poi non sono mai arrivato, nemmeno con l'ideale ci arrivo, non esiste. Riprendi Gianfranco. Io... lo stesso sono molto molto perplesso di questa cosa, comunque va bene così. E mentre invece Emanuele, ripeto, questo è un baracchino, quindi è un apparecchietto che dovrebbe sentire tutti, stamattina sentiamo anche i camionisti che lo sappiamo come sono, però a lui vibra, fa vibrare anche l'apparecchio e la rete risulta proprio, come dire, troppo esagerata, ben oltre il 100% di modulazione effettiva che dovrebbe essere su AM. E questa qua è la modulazione, Gianfra. Addirittura sto usando anche un microfono normale, pensate, non ne ho microfoni più amplificati. Non lo so, deve essere la voce, però rispetto a quella di Marco e anche a degli altri, ci sono dei problemi, perché quando parli tu mi tocca abbassare, oltre a neanche questo apparecchio, vediamo un po', sì, abbastanza basso già, quindi per chi sta facendo questo può essere un problema, perché deve stare abbassare, alzare, abbassare, alzare. perché è esagerata, la notte sarebbe tremenda una cosa del genere. Vai tu Marco lì, fai entrare l'amico di Porto Torre, cioè. Ma mi sembra strano che arriviamo a 9, io a 9 sicuramente non ci arrivo a Porto Torre, cioè. Sicuramente io a 9 negativo, perché c'ho l'antenna in giardino, figurati, si può dire in terra, vai Marco. Sì, sì, infatti, non so, lo Smith segna troppo, ma poi è troppo alto lui il segnale qua. Poi qualcuno da Sassari che un po' così mi piace giocare. Va bene, noi accettiamo tutto. Vabbè, Marco, io passo sull'altro apparato, così ci togliamo questo spizio qua di corrotore, che di lì commuto le antenne, vediamo un po'. Scusa un attimo, Gianfra, addirittura ti stava passando, figurati se sei da Porto Torre, se, ma è una buffa, eh. Addirittura sentiva lui. Probabile, probabile. Ehi, fallo raffreddare quello anche, dai, che quelli piccoli scaldano a bestia, dai, metti un apparecchio serio, così almeno vi sento uguali di volume. Vabbè, vi saluto, questa sera devo fare una commissione adesso. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao Claudio, di nuovo picchi negativi. La radio ha migliorato, la modulazione molto. Picchi negativi di nuovo però. Boh. Bisogna dare un'occhiata a quell'impianto. Marco, io come sto uscendo bene, sì, non ci sono problemi. Picchi negativi c'ho anche io. No, mai avuti tu picchi negativi, mai. Ma è quello, è un baracchino oppure qualcosa di meglio, diciamo? Questo è un baracchino della mutua, Marco, un baracchino della mutua è questo. Forse tutti così quelli della mutua, va anche troppo bene in radio. Ma c'hai anche le bande laterali lì, FM, tutto? Sì, questo sì. Vabbè, FM sì, c'eri anche prima, mi pare, in FM. Che ora è? Forza miseria, 7.05. Wow, dopo vedo, dai. Devo fare qualcosa qua, una qualcosina. Io se avrei avuto il tempo, se c'era stato qualcosa dove appoggio e tutto, l'avrei messo al suo mascolino. Se no, non l'avrei lasciata qua, dai. Comunque, dai, non mi posso lamentare, esce abbastanza bene anche... anche qua in giardino, dai. Sì, sì, voglia. Tu non fai chi vuoi con l'antenna così bassa, no? A nessuno? No, no, assolutamente. Infatti su che quando l'avevo messa su faceva TV, quando la volevo piazzare su. Ho provato tutte le zone immaginarie, eppure niente da fare. Ho dovuto metterla giù, l'ho messa giù a vedere se disturbavo laggiù, eppure neanche una riga. Cavolo. E poi c'è quella regola, per esempio la mia, allora tutte le antenne TV del palazzo sono sul bordo del palazzo, no? Verso Monte Oro. Io invece ce l'ho nel gabbiotto centrale, quindi la mia antenna del baracchino è dietro le antenne TV, diciamo non proprio dietro, dietro di tre quarti, dai, ed è più alta giustamente delle antenne TV. E perciò problemi nel palazzo non ce ne sono stati. Ci hanno fatto qualche battutina, sai, all'assemblea, ah io vedo male la TV, tanto detta così per farti rimanere male, ma in realtà poi nessuno si è lamentato qua. E d'altronde cosa vuoi? C'è più di così, apparecchio omologato, filtro multicella, passava basso, microfono originale, cosa posso abbassare di più? Un poco tutto, E poi avevo fatto delle prove particolari per vedere se riuscivo a disturbare la mia TV, no? Che in tutti i modi non c'era verso di disturbarla la TV mia. Niente. No? Con aiutino, senza aiutino, col filtro, senza... niente. Ho controllato i primi 56 canali o quanti erano, niente. Nulla. Zero totale. Anche volendo non riesco a disturbare la mia TV, non c'è modo. Quindi vuol dire che l'impianto è fatto bene. Sai, tutto cavo nuovo, antenna nuova, eccetera. Niente amplificatore poi, perché Monteoro è a portata ottica. No, ma stai uscendo bene, anche se c'è tanto cavo che sicuramente avrai un bene di dispersione, però esce abbastanza bene. Io allora di cavo c'ho dalla radio all'antenna sono 20 metri di cavo, di 155 di cavo. Ah, hai messo l'H155 della Solo Grigio, no? Hai fatto benissimo. E se l'avessi saputo l'avrei fatto anch'io. Perché io conoscevo, 10 anni fa, conoscevo vabbè il 58, conoscevo il 213, che è quello che ho adesso, solo che è grosso quanto un dito, è poco flessibile. E io non sapevo che esisteva il Belden H155, che è sottile come il 58, però ha la stessa perdita, cioè perde poco come il 213, capito? Avrei messo quello, più flessibile, più sottile, e vabbè, pazienza. Oppure se proprio devo ottenere il cavo grosso avrei messo l'H1000 che è ancora migliore, dà meno perdita. Stesso diametro, meno perdita. Gianfranco, ci sei? Sì, sono di Polacco adesso, ma ho visto che il portatore se n'è andato. E niente, sì, solo che con quello perderesti, cioè se metti la Camilla è molto più rigido del 213, cioè, perché dentro non è a fili, è un filo unico grosso. Sì, il centrale è rigido, infatti troppo rigido. Infatti l'H155 sarebbe stato ottimale. Ho visto le tabelle, decibel metro, in base alla frequenza, e bene o male come il 213 come perdita. Sarebbe stato più comodo, però comunque vabbè. Già andrebbe finché non si sfascia tutto, poi quando si sfascia tutto. Mettiamo tutto in scatola, mi apro la bancarella. Gianfranco, non è che puoi sollevare un po' la modulazione, così ti sento pari a Manuele e mi regolo il volume. Aspetta che guardo lo strumento, no? No, guarda, di modulazione qua c'è lo strumento modulatore, mi segna già abbastanza. Adesso forse Manuele ha abbassato un po' e anche io lo sento un po' meglio, cioè più, non c'ho bisogno di giocare col volume. E questo è un mic da tavola, c'è anche picchi abbastanza alti, per sentire anche la ventola. La modulazione è bella chiara, Gianfra, bella chiara senza rumori di sottofondo, perlomeno qua ti ascolto benissimo. Vai Marco. Eia, va bene, dai. No, se non puoi alzare non c'è bisogno, dai. Già mi regolo io. Cosa volevo dire? Sto finendo la parlantina. Io venite in soccorso, Gianfranco, attacca, trovo l'argomento. Fra un po' devi mangiare pure tu a me. Mentre io sto digerendo il pranzo, te devi cenare. Sì, è probabile. Guarda adesso se è successo un macello. Adesso è fortemente compressa. Ma almeno metto il volume, lo lascio uguale per tutte e due, capito? Lo so, però i picchi si vedono e come, nonostante la potenza sia anche abbastanza bassa. Cazzo, si sente ventolame, rumore di due elicotteri, cos'è? Ventole. Sono con la finestra aperta, c'è molto caldo, anche la ventola dell'apparecchio si è accanata, è così. Non ho guardato però la temperatura quanto siamo, perché non si vede un tubo. Comunque dovrebbe essere alta, perché anche oggi ha fatto caldo. Sì, e ti dirò che al mare non si sta affatto male, a quanto ha detto Franco, l'ho sentito quando ero ieri o l'altro ieri, Franco zona in via di Sicilia più o meno. c'è meno gente, non c'è tutto quella, non c'è quell'assembramento di gente, trovi più parcheggio, giornate tiepidine, leggermente ventilate. Infatti è più bello l'inizio e la fine dell'estate, capito? Ma nei mesi più caldi è proibitivo per me, per il mio fisico. Oggi sono uscito giusto alle 2:30 a fare una spesuccia. Poi ho trovato lo stesso parcheggio che avevo lasciato sotto casa, che culo. Di lì è triste, di lì è triste. Emanuele, a te cosa ti sembra? Adesso è troppo, vero? No, la modulazione va bene, Gianfra, solo che si sentono rumori di sottofondo, di ventola, come ha detto Marco. Però la modulazione già va bene. Sì, perché ripeto, c'è caldo e non è stata in funzione la ventola del coso. Vediamo un po' se si toglie in trasmissione a passare. Ecco, adesso lo tolgo. Forse ha diminuito, magari se mi avvicino così forse va meglio, ma non è il microfono, la tavola mi piace, il microfono in vicinanza, ecco. Vabbè, la preferivo anche con la ventola, però più pari come volume con Manuele, capito? Comunque non ti fa problemi, Giofra, poi già mi regolo io. Allora, ti volevo dire, ho letto il manuale di servizio di quel presidente, no? E ricordi c'erano due regolazioni, due trimmer, una era la modulazione AM e l'altro la AMC, no? Allora, praticamente da manuale di servizio dice di, l'AMC sarebbe il limitatore, prima dice di aprire tutto il limitatore, come che non ci fosse, no? Aprirlo tutto girando in senso orario, poi regolare la modulazione, la percentuale di modulazione con la AMOD, no? Con l'altro, portarla tipo al 95%, e poi richiudere il limitatore in modo che sia a filo dei... a filo del 90%, dai, in modo da non superare quella soglia, ecco, ecco perché ci sono due trimmer, però confondono un po', poi sono di un delicato sono, per carità, si rompono solo a guardarli. Sono tutti così ormai, purtroppo, anche quelli degli apparati più costosi, tutto SMD, anche trimmer, condensatori, macello, poi devi stare molto attento anche per installare qualcosa, perché sono molto affossati, tutto lì. Avanti Emanuele, cosa ti sembra adesso? Sono tornato come ero prima, ho provato anche il multigamer ed è abbastanza alto, considerando le possibilità di questo apparecchio. Sì, Gianfra, per me adesso va bene, non c'hai rumori di sottofondo sotto. Capito, per me la modulazione va bene, a te Marco. Sì, dai, tu sei più forte, più acuto anche, mi regolo col volume un pochino. Ho sentito ogni galori, ma non c'è più nessuno in PMR. E per quello ho sentito ogni galori, mi sono messo a ridere. Però bene o male in casa, almeno senza maglietta si sta bene, cioè i jeans ancora vanno senza maglietta, e ti devo dire che la pelle è fresca. E sai perché però? Perché ho chiuso le porte e finestre, perché se no mamma qua apre tutto apre, quindi il caldo da fuori, che qua batte il sole, poi entra tutto qua in questa camera. Io invece ho chiuso le porte e finestre, ho le finestre, quindi oggi si sta meglio di altri giorni. Gianfra, ti volevo dire, ma chi fa l'assistenza in teoria a questi baracchini, almeno quando sono in garanzia, si limitano a sostituirli o c'è qualche tecnico che ancora con tanta pazienza li ripara? Cioè, perché sono talmente piccoli che ci vuole un neurochirurgo per dissaldare componenti su queste schede. Non parlo di questo, che il 3009 è tutta roba grande, di questi SMD, cioè ci vuole una vista di falco, ci vuole lente ingrandimento, poi gli oculari da chirurgo veri e propri. Serratore